Allora, l'articolo di Abraham Maslow, Psicologia esistenziale, che significa per noi nel libro Rollo May, Psicologia esistenziale. Bene, parto dall'ultima frase di questo testo, dice: non ritengo necessario prendere troppo sul serio l'insistenza degli esistenzialisti europei sulla paura, sull'angoscia, sulla disperazione e così via, per cui il loro unico rimedio sembra consistere nel tener duro, cioè nell'accettare il limite, nel sapere che noi siamo messi in grandi difficoltà, essendo sulla Terra. Ecco. Questo cosmico piagnucolio ad alto quoziente intellettuale ha luogo ogni volta una forma esterna di valori fallisce nella sua funzione. Ecco. Allora, mi avviso, questo è il nucleo di questo articolo. Ed è anche il nucleo di ciò che interessa a noi. Un altro punto del testo dice, poi trovi tu qual era quello del il punto dove parla del... Allora, a pagina 48 troviamo appunto la prima conclusione. No, scusa. Sì. Questo qualcosa di reale è, credo, il crollo totale di tutte le forme di valori al di fuori dell'individuo. Allora, anche questa frase merita un commento insieme all'altra. Per comprendere questa frase bisogna ritornare a 2500 anni fa, più o meno, all'oracolo di Delfi, che dice: Gnosis auton, conosci te stesso e conoscerai Dio. E qualche secolo dopo, 700-800 secoli dopo, Agostino che dice: Veritas, la verità abita in interiore homine. Quindi, cosa ci insegna Agostino e cosa ci insegna la grande saggezza greca? Ci insegna che se vogliamo trovare i valori, dobbiamo scavare dentro noi stessi. E lì troviamo Dio, cioè il vero Dio, cioè l'essenza di tutto ciò che è umano. Nei nostri termini, i termini Aleph, a cui siamo abituati, sono l'insieme delle qualità dell'essere. Questi sono i valori. Ma è stato Nietzsche a farci scoprire in modo definitivo che tutte le forme di valori esteriori sono false, cioè te lo andiamo a vedere, no? La genesi della morale. Cosa serve la morale? La morale serve a tenere coeso un gruppo, e questo gruppo è tenuto coeso da strutture di potere, quindi da qualcosa che è il contrario di quello che dice, cioè è tenuto insieme da una falsa autorità. Ogni falsa autorità che proclama dei valori chiaramente proclama delle falsità che possono servire a una cultura, a una società a tenersi insieme, ma siccome sono false, prima o poi cozzano con la realtà dei fatti. Allora, nel Novecento scopriamo, fine 800 e 900, scopriamo che tutte le fonti di valore non sono attendibili. Perché? È perché sono umane, troppo umane, come direbbe Nietzsche. E allora finiamo nel nichilismo, non c'è scopo, non c'è significato, non c'è nulla, è morto Dio. Ma questo, ricordiamoci che per Nietzsche era nichilismo negativo, ma il nichilismo negativo va salutato con gioia, come dice Guzzi. Meno male che l'abbiamo scoperto, credevamo in una serie di sciocchezze e finalmente scopriamo che sono sbagliate. Va bene, ma questo è solo il primo pezzo, e allora se ci fermiamo qua siamo perduti, entriamo nel nichilismo, diciamo, distruttivo. Esiste appunto il nichilismo positivo, no? Quello che ci dice: siccome non possiamo trovarle fuori, beh, dovremmo trovarle dentro. Le troviamo dentro di noi. E chi è che oggi lavora per scoprire dove stanno i valori dentro di noi? Lo scoprono i clinici, i psicoterapeuti, quelli che lavorano davvero, davvero, e non quelli che si limitano a fare un lavoro di superficie, anche quando credono di fare un lavoro di profondità. Cosa succede se anche nel mondo della clinica io lavoro in superficie, credendo lavoro in profondità? Vado a scoprire il sé inferiore, quindi la rabbia, e poi vado a scoprire tutte le fonti di angoscia, la tristezza, la paura, l'impotenza, tutte queste. Io mi fermo lì, divento nichilista. Per superare questo bisogna che vada all'origine, al fonte, quello che c'è dietro, cioè, in termini reichiani, in termini core energetica, il core, il nucleo divino degli esseri umani, che già i greci avevano capito. Ecco. Allora, se io arrivo fino lì, e che poi il nucleo profondo dell'essere umano è il divino in noi, allora il nichilismo finisce. E allora lì sì che posso dire ciò che è più universale, ciò che è più personale, cioè il divino in noi è più universale, il divino nel mondo. Questa è la grande scoperta che hanno fatto gli orientali, sia gli induisti, buddisti, taoisti. Ma questa scoperta è stata fatta anche in Occidente. Meister Eckhart, facendo un lavoro su di sé profondissimo, ha scoperto le stesse cose. Quindi un monaco occidentale scopre assolutamente la similitudine col mondo orientale. Non lui, la scopriamo noi, perché lui non la conosceva. Oggi, a poca distanza da noi, Henri Lesot scopre la stessa cosa, un monaco benedettino che va in India e scopre che cosa? Che in interiore omine c'è il divino, ma siccome c'è il divino in interiore omine, allora il nucleo originario delle vere e profonde religioni è analogo. E con questo arriviamo al tema del dialogo interreligioso, non c'è nessun dialogo da fare, semplicemente c'è da andare alla fonte. Quando si va alla fonte le cose tornano e non si discute più. Questa è la fine delle guerre. Prima di questa ci sono tutti gli strati interiori, chi crede. Allora, che cosa fanno i filosofi? Che andando dentro di sé, senza fare un lavoro veramente profondo, scoprono l'angoscia, la paura, la tristezza, prendono queste parti di loro, cioè parti, e le proiettano nel mondo, universalizzandole. Ma loro stanno parlando di parti di sé. Nel momento che credono, invece di parlare dell'universale, stanno facendo un danno terribile, perché diventano cattivi maestri, cioè autorizzano tutte le persone più ignoranti di loro, che hanno fatto meno indagine, ad accontentarsi e scoprire che la tristezza, la paura, l'angoscia sono i normali compagni dell'animo umano. È vero che lo sono come le stonature, andare fuori tempo, sono i normali compagni un principiante in musica. Quindi, allora, infatti per noi un uomo musicale è un uomo che queste stonature non le compie più, e quando le compie le riconosce subito, non si dà ragione e poi le universalizza dicendo che il mondo è stonato, che l'umanità è stonata. Sono io che stono. E infatti qui il grande insegnamento della mistica, la forse più grande mistica del Novecento, Simone Weil, dove dice, ma c'è un solo un sentimento importante, veramente importante, che è la gioia. E cos'è il sentimento della gioia? È il sentimento della realtà. Allora, finché non arriva la gioia, io devo stare zitto, nel senso che non devo proclamare delle verità che sono verità parziali e comunicarle come se fossero verità universali. Nel momento che faccio questo, se mi serve a guadagnare dei soldi perché ci ho campato, è anche comprensibile, un fatto economico, così come un altro mi vende del tonno magari non tanto buono, vabbè, lo vende perché deve campare, io posso vendere delle idee balorde per camparci, ma se vado in profondità, questa è una truffa. E per un intellettuale una truffa di questo tipo lo condanna poi ad avere un senso di colpa infinito, perché la sua anima sa benissimo che sta sbagliando. Ecco, è da lì che deriva poi l'astio, l'arroganza, tutte quelle, l'opposto di qualità che molti intellettuali hanno. Quelli non sono veri intellettuali, i veri intellettuali vivono nella gioia, vivono nella bellezza, vivono nell'armonia. Allora, questa grande saggezza che c'è in Occidente come in Oriente è il tesoro più profondo dell'umanità, e è questo che noi dobbiamo dare valore. E Maslow ci aiuta in questa direzione. Infatti Maslow, con le sue ricerche sulle peak experience, sulla realizzazione dell'essere umano, ci fa capire che va bene, c'è la patologia, ma la patologia è sempre una parte. Parte, non è il totale. E quando noi scambiamo una parte per il totale, lì allora sbagliamo. E non possiamo neppure essere terapeuti quando la pensiamo così, veri terapeuti, possiamo essere solo terapeuti di superficie, anche se ci crediamo di essere terapeuti in profondità.